quando io dentro di te aprirò una porta di nostalgia, quando tu spaccando il cielo dirai lascio tutto, voglio andarmene via, metterò all'incanto i nostri momenti, pregherò che il cielo possa aiutarti, so che sai teneramente sbagliarti. Piano piano dolcemente scenderemo a luci spente dentro di noi, saliremo ancora insieme sopra i monti e le colline in alto lassù, e ci esploderà nel cuore tutto quello che di amore c'è, verso il futuro ancora io e te. Quando tu sopra di me sembrerai una stella fredda o chissà, quando io dentro di te sentirò l'amore che se ne va, troverò una luna da queste parti, salverò la prima voglia di averti, tornerò nel tempo e ti cercherò, ti cercherò. Come foglie lente scenderemo in un dolore dentro di noi, poi risaliremo insieme senza orgoglio né paura in alto lassù, e ci esploderà nel cuore tutto quello che di amore c'è, verso il futuro ancora io e te. Intrecciando queste mani prenderemo il vento che già sai, stretti nel tempo finalmente noi, sulle infinite vie del cuore ormai.